Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Oggi con questa sigla nuova arriviamo ad inaugurare la nuova stagione ed un anno ormai di collaborazione con l'ADICO, Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ai primi di ottobre dell'anno scorso abbiamo iniziato un percorso lungo appunto 52 settimane, tolte le pause di Natale, forse di Pasqua. Arriviamo tra un paio di giorni arriviamo alla 100ª puntata e allora, passato un anno, è il momento di fare un bilancio. Lo facciamo insieme a Carlo Garofolini, presidente dell'ADICO. Ben trovato. Ciao Mirko e un saluto a tutti. E dunque, un anno fa, forse nemmeno noi, quando io ero venuto a proporvi, a proporti questa idea, pensavamo che ci fosse così successo. Io mi aspettavo che ci fosse interesse, ma magari non con questi numeri. Sì, è stata una cosa che anche per noi è stata nuova, perché comunque è stata un'occasione di conoscerci, ma è stato anche un impegno che per la prima volta abbiamo voluto assumere con qualcuno che è stato sensibile alle tematiche consumeristiche e che ha deciso di proporre questa idea e portarla avanti per così tanto tempo. E chiaramente a distanza di un anno è veramente piacevole trovarsi qui e fare un bilancio e anche in certo qual modo gioire un pochino per quelli che sono certi successi che siamo riusciti a conseguire assieme. Eh sì, perché ormai viaggiamo verso le 18.000 letture sul nostro sito, contando tutti gli interventi di tutto l'anno, quindi davvero sono numeri significativi. Vuol dire che evidentemente i temi che voi scegliete, che poi noi cerchiamo di sviscerare, interessano. Sì, 18.000 contatti sicuramente sono 18.000 contatti di persone che per tanti motivi magari hanno voluto ascoltare o ricercare queste rubriche anche a distanza di tanti giorni da quando sono state pubblicate, perché probabilmente hanno trovato negli argomenti che abbiamo voluto affrontare ragione per ascoltarci. Però è anche vero che un numero come 18.000 è un numero molto importante, perché vuol dire che quella che è un pochino gli sforzi che l'ADICO, tramite anche voi che siete operatori del settore, vuole fare, ed è quello di cercare di fare informazione, sicuramente può ritenersi soddisfatta, perché per noi l'informazione è la migliore prevenzione che si può fare per aiutare il consumatore. E certo, se non ci foste voi con il vostro lavoro, anche noi saremmo molto efficaci e non saremmo così magari utili per le persone quando hanno delle problematiche e non sanno a chi rivolgersi. Diciamo che è un ruolo che si intreccia, no? Voi senza di noi senza di voi, questo prodotto, questa offerta, questo servizio non sarebbe uscito e riuscito, e speriamo ancora così efficace. Diamo un'occhiata, Carlo, a quelli che sono stati finora, sono abbastanza in testa nettamente gli argomenti più scelti, più cliccati. Sì, è vero che in un anno abbiamo affrontato tanti argomenti ed è vero che molte volte abbiamo dovuto anche scegliere quali non affrontare, perché ce n'erano veramente tantissimi. E gli sforzi che abbiamo dovuto fare assieme sono stati anche quelli di cercare quelli di maggiore interesse, proprio perché ritenuti nella settimana in cui andavano in onda quelli che, insomma, i consumatori potevano avere maggior ragione, come detto, di doverci ascoltare e seguire anche un po' le istruzioni e i consigli che a volte io, a volte altri esperti dell'ADICO, abbiamo sempre cercato di dare in tutte le occasioni e in tutte le circostanze. E chiaramente abbiamo visto che gli argomenti che vanno molto normalmente sono soprattutto quelli anche di economia, e in primo posto possiamo vedere che abbiamo avuto il bonus bebè, che è stato un argomento molto battuto, perché è stato quell'argomento che quella vicenda in cui il governo aveva dato dei soldi per i nuovi nascituni e a distanza di 2-3 anni ha voluto restituire la somma indietro, cercando anche di poi penalizzare l'utente contando di una bella denuncia penale per appropriazione indebita di denaro pubblico. Qui c'è stato un grande intervento dell'ADICO, come molte altre associazioni, tramite voi, che hanno cercato di fare anche una certa opera di persuasione nel governo, intimando un pochino quelle che erano le ragioni, la buona fede per cui le persone avevano trovato necessità, dove chiedere i bonus bebè, e nella buona fede avevano sbagliato e certamente non meritavano di dover sostenere un processo penale o dover pagare migliaia di interessi o rischiare addirittura 30 giorni di reclusione. E questo è stato l'argomento più battuto. Poi tra l'altro, Carlo, se mi permetti, questa fu proprio la primissima puntata andata in onda ed evidentemente colpì subito nel segno, insomma. Sì, quindi, vedo che è andata in onda proprio 4 ottobre 2011, ecco. Quindi è qua un anno ormai. Il bonus bebè scadeva il 30 settembre proprio di quell'anno lì, ed è stato un argomento che anche noi ci eravamo trovati un po' coinvolti in prima persona, perché veramente mi ricordo che le persone arrivavano con queste cartelle dove appunto c'era qualcuno che gli intimavano addirittura di restituire 4, 5, 6 mila euro indietro tra mori, interessi, sanzioni, convertite in pene pecuniarie a 30 giorni di reclusione se non avrebbero dimostrato la buona fede. Dopo alla fine invece abbiamo scoperto che le persone magari non avevano considerato il valore della casa nel reddito complessivo o hanno sbagliato di pochi euro quello che è un po' la cifra che dovevano star sotto per poterla richiedere. E dopo ci sono stati anche moltissimi altri argomenti che abbiamo affrontato assieme, che hanno riguardato molto anche l'economia, tutte le manovre che insomma il governo ha fatto in questi mesi, in quest'anno, da quando ci conosciamo, che le persone hanno sempre prestato moltissima attenzione, perché comunque ricordiamo che in quest'anno le persone hanno dovuto sostenere 5 manovre finanziarie, 3 di Berlusconi, 2 del governo Monti, e poi tutte quelle vicende di attualità come le gomme da neve che erano andate in vigore proprio nel 2011 a novembre, sì. E le persone non sapevano neanche qui bene come comportarsi, i rischi che dovevano percorrere, i rischi che avrebbero corso nel caso si sarebbero trovati a doversi fermare, essere fermati, non avere le gomme montate, e tutte quelle vicende poi dell'autovelox, ai giovani la crisi, abbiamo parlato di tredicesime, di capodanni, molto spese farmaceutiche, spese veterinarie, insomma tutto ciò che riguarda anche poi l'economia domestica e quotidiana. È stato anche molto battuto l'argomento delle cavie umane, un argomento che abbiamo voluto portare alla ribalta in questo periodo di crisi, dove molte persone si erano rivolte all'Adico per cercare di chiedere informazioni, per farsi volontari a queste sperimentazioni farmacologiche, di cui noi con grande sconcerto abbiamo dato notizia, per indurre le persone un pochino a riflettere sul fenomeno, ma anche le istituzioni, per dare modo un pochino di comprendere la gravità della crisi con cui molte persone e famiglie in questo periodo si trovano tuttora. Ricordiamo tutti che possono segnalare eventualmente temi o tramite l'Adico, associazione difesa consumatori.it, oppure tramite noi, tramite Blu Radio Veneto, quindi noi renderemo la palla e poi la rilanceremo in questo spazio che abbiamo chiamato, appunto, ribattezzato per la prima volta dopo un anno, diritti e rovesci, perché i diritti che bisogna difendere e i rovesci sono le cose che invece vanno male, che noi cerchiamo di denunciare. E allora, ormai alle soglie della 100ª puntata, che dire, Carlo, 100 di queste puntate. Sì, 100 di queste puntate, ma per il prossimo anno e altrettante per i prossimi 20, sperando sempre che le persone possano trovare soddisfazione su quelli che sono gli argomenti che trattiamo, e l'invito che noi come Adico rivolgiamo sempre alle persone, che se hanno delle segnalazioni o delle richieste, come hanno sempre fatto fino ad oggi, continuino sempre a evidenziarcele, perché molte volte il consumatore deve sapere che un'associazione dei consumatori, l'Adico in primis, riesce a essere efficace, utile dalla parte del cittadino, se il cittadino ci aiuta anche a segnalare quelli che possono essere dei disservizi o delle disavventure che nella vita quotidiana si possono trovare di fronte anche a loro insaputa o scoprire per caso. E noi saremo qui 2 volte alla settimana, martedì e giovedì 17:40, e poi in replica la mattina successiva alle 10:40, ovviamente sul nostro sito. Grazie a Carlo, grazie all'Adico, a fra un paio di giorni. Grazie a te, Mirko, e un saluto sempre a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.